Volevo vedere questa zagara che gli hanno piazzato sul mento, anche perché così potremo fare causa finalmente a Capri. Bellissimo rivedere tanta gente, tanti amici, sentire questi urli così, è una cosa che personalmente avevo bisogno. Pazzesco, ma come fa un gallo nel recinto delle oche? Tutti convocati. Di Carlo Genta. Cari miei amici convocati, buongiorno a tutti. 800 24 00 24 per rispondere alla convocazione non della nazionale ma di Radio 24. Franco Piantenida, autore di questo programma, Pietro Lacorte oggi in regia. Allora, sono giorni molto azzurri questi di inizio settembre, questi di fine estate, stanno per cominciare le scuole e dunque i nostri scolaretti azzurri, quelli del calcio naturalmente, proveranno a fare i bravi e a chiudere, come sapete, la pratica qualificazione mondiale con due giornate di anticipo. Bisogna battere la Repubblica Ceca questa sera alla Juventus Stadium. Prandelli dice così: abbiamo lavorato bene in questi due giorni perché abbiamo avuto il tempo di recuperare, sappiamo l'importanza di questa gara, quindi sarà una partita da un punto di vista nervoso dove noi dobbiamo assolutamente non sbagliare nulla, ma noi abbiamo un grande obiettivo, abbiamo la necessità e la volontà di chiudere domani la pratica. Bene, domani che sarebbe oggi, Prandelli ha parlato naturalmente ieri, così abbiamo sbrigato l'argomento azzurro, se volete lo riapriamo, naturalmente lo riapriremo, ne parleremo domani, 800 24 00 24. Adesso però andiamo sulle cose che davvero interessano a me. Filippo Maria Ricci, buongiorno. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio da Madrid, caro da Filippo Madrid. Maria Ricci, Gazzetta dello Sport e Radio 24. Allora, è inutile che ci giriamo intorno perché ormai mi conosci abbastanza. Potrei chiederti dei primi giorni di Bale al Real Madrid, di Ancelotti il tagliatore di teste, magari di Neymar, di quello che vuoi. E invece di cosa voglio parlare? Fammi di Aida Jespica vuoi parlare tu? Siete Paprizio. Ditemi che siete Paprizio, il mio promesso sposo. Allora chi siete? Sono Casanova. Cosa? Sono Giacomo Casanova. O sono Mesut Özil, caro Filippo. Ma dai, ma per favore. Come per favore? L'hanno cacciato via perché perché è uno sciupa femmine. Questo è bellissimo. Ma qui c'è la propaganda. Ma neanche De Laurentiis l'avrebbe detto. Ma infatti non l'ha detto. Cioè, attenzione che in Italia, non voglio parlare male dei colleghi, però ci sono arrivate delle frasi virgolettate di Florentino Perez che non ha mai detto. Le ha detto un giornalista di ABC, che non le ha dette per caso, dalla Casa Bianca gli è arrivata una velina, però non una velina in carne e ossa, quelle vecchie, quelle vere. un dispaccio della Pravda, dispaccio, sì. E in Italia, bellamente, queste frasi dette da un giornalista sono finite in bocca con Florentino Perez. Insomma, mi sembra veramente uno scandalo. No, allora cosa succede? Se vuoi te lo spiego, poi dopo voglio sapere. Perché non riesce a star fermo, questo va bene, però la versione non c'è, la realtà è un'altra. Lui aveva problemi, malumori, mal di pancia economici. Guadagnava 5 milioni di euro, la metà di Kakà, cosa che ovviamente lo infastidiva, la metà di Ronaldo, e adesso addirittura meno di Bale, che arriva nuovo, non ha vinto niente, gioca per il Galles, lui è il 10 della Germania e gli guadagna più di due volte tanto. Il padre è il vigoroso Mustafa, era andato più volte a battere cassa da Florentino e niente, il presidente non l'ha mai ricevuto, sì, però poi gli è sempre detto di no. Dopodiché arriva Ancelotti e lo mette un po' sulla destra, poi lo toglie due partite, lo rimprovera perché non torna, non copre come dovrebbe, e lui il mal di pancia aumenta, è così. E quando poi è arrivata un'offerta dell'Arsenal, che è un giocatore che hanno pagato 15 milioni e lo rivendono a 50, eccoci qua, che è così. Dopodiché cosa succede? Attenzione, perché Real Madrid già ha venduto ben tre giocatori che, andati via, hanno conquistato il triplete. Sì. Snyder e Robin. Sì. Quindi diciamo meglio smontarlo un po' sto Osil, perché non si sa mai, è difficile che vinca il triplete con l'Arsenal, perché sarebbe un miracolo di quelli che non avvengono più, però insomma e quindi è partita un po' la macchina di propaganda, tirando fuori questa storia con Aida Jespica, che secondo me è di 2 anni fa e alla quale vabbè mica prescritto non c'è la prescrizione per queste imprese. Poi soprattutto io voglio dire, adesso parliamoci, che il presidente si adombri per questo, quando poi il suo cocco Benzema ci ha aperto un processo perché andava con una prostituta minorenne, dai, di cosa stiamo parlando, no? Sì, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di propaganda, come dici tu, della Real Casablanca. Cioè, qua hanno abbassato il prezzo dell'acquisto di Bale per non fare... Cristiano Ronaldo naturalmente. Ronaldo, capito? Dicono, sono arrivati a dire che a un certo punto per non far irritare Osil, un giornalista vicino a Florentino Perez in televisione ha detto che Bale veniva a guadagnare 5 milioni di euro netti, sì, che al top già ne prendeva 6. Sì, no, ma certamente, ma al di là di questo, oltre al fatto che mi hai smontato quello che stava diventando il mio nuovo idolo, cioè Mesut Özil, che peraltro mi piace moltissimo come calciatore, peraltro, però dopo che ho letto che mi hanno ricordato a mezzo stampa sul tuo giornale, peraltro, c'era questa tabella degli stipendi dei giocatori che Cambiaso ne prende 4,5, Mesut Özil ha fatto bene ad andare con la Jespica e ad andare all'Arsenal, voglio dire, e insomma, dove siamo? Per lamentarsi, perché adesso cosa succede? È che tu hai venduto, non hai venduto bene, colpa che è il giocatore più caro, diciamo l'incasso migliore della Real Madrid in uscita. Sì. E va bene. Però qui sta parlando del 10 della Germania, se l'anno prossimo la Germania vince il mondiale, questo qua può anche essere un candidato al pallone d'oro. Certo. No, è un super giocatore. Però è un signor giocatore. È un super giocatore. La cosa interessante è che i tifosi alla presentazione di Bale hanno bacchettato Florentino, che addirittura gli argentini col ditino davanti alla bocca, quindi era irritato. E poi sono usciti pure i giocatori a dire no, ma non dovevano venderlo. Cioè, Sergio Ramos ha detto, dice, è l'ultimo che io avrei venduto. Sì, ma sono abbastanza d'accordo su questo. Cioè, è un giocatore. Quindi, è un giocatore... Allora, che si fa? Si tira fuori Aida Jespica. Si tira fuori Aida Jespica, naturalmente. Stai lì, Filippo. Stai lì, che ho il traffico. Ho il traffico. Poi parliamo di tiki taka e di allergie. Tutti convocati. Ragazzi, vi ricordo che se volete parlare della Jespica o di Osil o del principe delle Asturie Fernando Alonso o di quello che speriamo sia principe di Spagna Vincenzo Nibali o della nazionale di basket o di Nascondino, perché poi parliamo anche di Nascondino, siamo qui, 800 24 00 24, messaggi 349 238 6666. Allora, quello di Florentino Perez ha smentito Filippo Maria Ricci che sia un virgolettato, cioè andava a donne e l'abbiamo venduto. Invece oggi ho letto un virgolettato che hai scritto tu di Piquet, che dice: eravamo tutti prigionieri del tiki taka, meno male che quello se n'è andato a tiki takare da un'altra parte, in Germania. No, beh, non è, adesso non esageriamo. Allora no, lui dice schiavi dello stile. Intervista che poi uscirà la prossima settimana, però oggi devo fare un pezzo di tattica sul Barcellona, e questa diciamo frase che mi ha detto ieri a me è piaciuta molto. Allora, prima cosa, lode a un calciatore che parla bene di calcio e che ci capisce, perché cosa non comune. E lui spiega bene le difficoltà del Barcellona, che trionfa in Spagna però non riesce ad attuare il piano B. Se si ferma il fraseggio e il palleggio, questi non sanno bene come cavarsela. E lui dice: con l'arrivo di Martino stiamo cercando opzioni e varianti. E lo spiega bene, per esempio, qui al Camp Nou si sono visti anche 2-3 lanci lunghi, quindi sacrilegio praticamente. No? Mamma mia. Non si può fare, proprio non si. E lui spiega perché, come stanno cambiando le cose, e giustamente dice: cioè, ci voleva, era arrivato il momento di cercare delle varianti. E in Spagna, non ti dico, solo questa risposta già ha causato un discreto putiferio, sì, perché ovviamente il dogma è intoccabile. Però lui dice: ma noi stiamo rimanendo fedeli al nostro stile, noi continuiamo ad avere la palla, il possesso, però se poi a un certo punto si trova una difesa chiusa che sa che noi andiamo sulle fasce, quindi ci lasciano le fasce, poi tanto al centro non passiamo, e non se ne è, adesso stiamo cercando delle alternative. E mi sembra veramente, devo dire, molto, cioè, bravo, poi uno intelligente, uno simpatico, sì, uno che parla bene, e oh, ce ne fossero, mettiamola così. Ce ne fossero, Filippo, ce ne fossero anche di Filippo Mariaricci, adesso però ti saluto. La prossima ciao, volta invece ciao, parliamo della sindrome di Asperger insieme. No, questo dopo. Certo. Ciao Filippo. Va bene, ciao, ciao, ciao. Saluto Filippo Mariaricci e in uscita e saluto invece un signore per cui tutti stiamo facendo, per lui e per la sua squadra stiamo facendo un tifo della Madonna, perdonatemi il termine. 800240024, dicevo prima, sono giorni molto azzurri, ma altro che nazionale di calcio. Marco Cusin, centro della nazionale di basket, che sta facendo impazzire l'Italia. Ciao Marco. Ciao a tutti. Ma vi rendete conto che c'è basket mania qui da noi? O siete chiusi nel collegio di Pianigiani in Slovenia e non filtra niente? No, sta filtrando poco, Simone sta attento a tutto quello che ci gira attorno, a parte gli scherzi. Siamo veramente contenti perché abbiamo riportato un grosso entusiasmo con queste vittorie in tutta Italia, quindi siamo felici di questo. Adesso stiamo già facendo i conti, andiamo con 4 punti alla seconda fase. Il girone è brutto perché Slovenia padrona di casa, Croazia, giovedì Slovenia, sabato Croazia e poi la Spagna piglia tutto lunedì. Già facciamo i conti, dicono, ma potrebbe bastare una vittoria o magari anche nessuna. Io non ci credo. Guarda, io non starei a fare dei grandi conti perché se iniziamo con la testa a fare dei conti e abbiamo già perso tutto quanto in partenza. Quindi adesso pensiamo a giovedì, la partita con la Slovenia, che sarà sicuramente una partita molto dura. Poi dopo penseremo, dopo la Slovenia, penseremo alla Croazia e dopodiché penseremo alla Spagna. Quindi adesso concentriamoci solo su quella partita e non facciamo calcoli, perché sarebbe veramente sbagliato iniziare a fare calcoli adesso, perché siamo solo all'inizio, sì, e quindi è sbagliato. E questo essere solo all'inizio, nel modo in cui abbiamo cominciato, è già un buon segno, questo mi piace tanto. Siamo solo all'inizio, detto da te, mi piace tanto. Sì, sicuramente, perché è il sogno di tutti quanti noi che siamo qua, quindi siamo all'inizio di un sogno e vogliamo portarlo via quel sogno fino in fondo. Quindi speriamo di portarlo più in là possibile. Marco, ti chiedo ancora questo. A me piace un sacco di quest'Italia, la grande fiducia offensiva che avete. Lo ripeto ormai tutti i giorni. Ne parlo con Dan Peterson, mi dice l'attacco, il tiro è un gesto agonistico. L'Italia gioca offensivamente in modo molto agonistico. Sì, sicuramente. Stiamo giocando molto bene, stiamo facendo circolare molto bene la palla in attacco, che è quello che ci chiede il nostro allenatore. Stiamo creando dei grossi vantaggi, soprattutto per i nostri piccoli, con magari dei tiri aperti oppure creando dei varchi per delle penetrazioni. Questo è importante, però non dimentichiamoci mai che tutto questo parte dalla difesa, che è sempre comunque una pedina molto importante del nostro gioco. Marco, ti saluto con questo SMS. Cuso, ministro della difesa. Grandi ragazzi, vi ho visti a Folgaria e si vedeva che siete veramente amici. Diego, lo scrivo un SMS, te lo regalo così. Ringrazio Diego per il ministro della difesa. Magari potrei fare anche meglio veramente del ministro quello che c'è adesso. Però, grande Marco, grande Marco. Non arriva lì qualche ministro, no? È andato con Sonati con la nazionale di calcio, lì non è prevista visita ministeriale. Non è nessun problema, adesso vale tutto. Un abbraccio. Grazie, buona giornata. Ciao Marco Cusin. No, sta facendo grandi cose. Chiaramente penso che la cosa principale che viene fuori è l'atteggiamento e la compattezza di squadra che hanno. Quindi come nel calcio, anche negli altri sport è sempre la chiave di tutto e la prima cosa da cui partire. Quindi noi dovremo mettere in campo anche questo. Quello di prima era Cusin. Questo che ha detto due cosine non male, questo è invece Montolivo, che ha detto impariamo dalla nazionale di basket, e ha detto una cosa, insomma, saggia, corretta, non che la nazionale di calcio stia facendo male, tutt'altro, perché arrivare ai mondiali in scioltezza, con 2 turni d'anticipo, cosa che potrebbe accadere stasera, è tutt'altro che banale per la nostra nazionale di pallone. Marco da Terni, primo ascoltatore di oggi, 800 24 00 24. Per svegliare Balotelli ci vuole il gallo di Mondoni con Mauro da Firenze. La vera notizia poteva essere che Ozil non era stato con la Jespica, sarebbe stato uno dei pochi. Paolo da Teramo. Marco da Terni invece cosa dice? Buongiorno, finalmente convocato. Ma come finalmente? Ti convochiamo tutti i giorni, fatta, finalmente rispondi. Eccoci io qua. Chiamavo per farti due richieste, Carlo. Presente. Di continuare a fare pronostici sia sulla Juve. Certamente, sia sulla cosa devo, dimmi cosa devo dire. Allora, sparane una che io ti faccio pronostico. Devi dire che la Juve vince lo scudetto. La Juve vince lo scudetto in scioltezza. In scioltezza, lo devi dire però per tutto l'anno. E va bene, adesso però vuoi troppo. No, vince lo scudetto in scioltezza, no, ma vince lo scudetto è la mia grande favorita. Perché tu tifi? Io? Non sì. So. E no, come non so? Tu per chi tifo, però devi dire che l'Inter va in Serie B e che la nazionale allora, di basket non è favorita. Va bene, allora, l'Inter va a essere... No, io posso anche dire che la Juventus vince lo scudetto, cosa che penso davvero, menando uno sgarro pazzesco, però l'Inter lo scudetto non lo vincerà mai. Ma io non l'ho detto, deve andare in Serie B l'Inter. No, sì, beh, stiamo facendo il gioco del tiki-taka, fai il bravo. Stiamo facendo il tiki-taka, però ho capito tutto. L'Inter, anche se la Juventus non vince lo scudetto, dovrebbe non vincere lo scudetto nemmeno il Napoli, dovrebbe non vincere lo scudetto nemmeno il Milan, la Roma, la Fiorentina. Ci accontentiamo già della partita di sabato, per noi vale un partita anno. Di sabato, per voi vale un anno, questo non è un buon segno, perché se una partita vale un anno, non è un buon però segno. Però alle Juventini gli dico che alla Coppa L danno Moggi in offerta a 29 euro. Ah, va bene. Okay. Va bene, Marco, grazie. Ciao. Ciao. Herman da Udine, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Grazie per la possibilità. Niente, telefonavo perché stavo tentando di capire dal sito della Juventus come fare, sapere quali sono i posti dedicati a persone disabili. Allora ho fatto una telefonata al numero verde, mi è costata 15 euro. Tabella massima, quindi fanno le fatturazioni come i 199, quelli sì. Hotline. Sì, ma ha telefonato alla, allora mi spieghi ancora, ha telefonato alla Juventus per sapere quali erano i posti disabili allo stadio? Sì, innanzitutto è difficile i biglietti acquistarli direttamente dal sito, bisogna farlo tipo, non so, 10 giorni prima che ci sia la partita, perché prima non ci sono tutte le partite prenotabili biglietti, quindi sì. Diciamo che per Juve Milan, dove porto mio nipote a vedere la Juventus a Torino, sì. È difficile. Ti danno un sito di collegamento per comprare i ticket, solo che i ticket del sito dove ti collegano, il meno costoso per Juve Milan sono 250 euro, una cosa del genere. 230 euro, sì. No? Mi sembrano un po' gonfiati. Quindi stiamo insomma. Ho fatto anche una mail però dopo, no? Ha risposto? Hanno risposto, penso sia una risposta di default, perché la parte dove io chiedevo informazioni sui settori, su che se ci sono delle scontistiche per le disabili, se l'accompagnatore paga, lì non neanche guardata. Ho capito. Questa parte, cioè hanno risposto a default dicendo che loro i ticket li mettono in disponibile tot giorni prima e una parte vengono dedicati a chi è nel member, diciamo. Sì, no, ho capito, ma io so che comprare i biglietti comunque è un gran casino, Herman, perché non solo per la Juventus, ma comprare i biglietti in Italia, l'ha denunciato giustamente l'altro giorno anche il presidente del CONI, insomma adesso va bene tutto, abbiamo stadi vecchi eccetera, però andare a vedere la partita con tutti gli orpelli che ci sono è diventato un lavorone, quindi io credo che dal punto di vista del ticketing, non solo del merchandising per usare queste parolacce, siamo ben al di sotto della soglia di civiltà. Per comprare un biglietto al Bernabeu, al Camp Nou ci vuole un attimo, vai su internet, ti scegli il posto, paghi con la carta di credito, prendi il biglietto, non so come siano procedure particolari, però dal punto di vista del ticketing, a quanto mi dici tu, poi io non ho altri riscontri, però accolgo volentieri questo grido di aiuto, pure la Juventus, che è una società ampiamente all'avanguardia da moltissimi punti di vista, a cominciare da quello dello stadio, evidentemente ha qualche problema nella vendita dei biglietti. Comprare i biglietti in Italia tra tessera del tifoso, botteghini chiusi, biglietti nominativi, tornelli eccetera, è molto difficile, è molto complicato per tutti. Allora ci fermiamo per la borsa, poi poi torniamo, abbiamo un sacco di altre cosine oggi, perché io mi dite sempre ma parli solo di calcio, di Balotelli eccetera, no, oggi capitolo altri sport imperdibile, a dopo. Tu sei il leader della mia intera famiglia, d'altronde io lo dico sempre che pur di partecipare a tutti i convocati camminerei sui carboni ardenti scalzo come il compianto Mino D'Amato. Tutti convocati. Devo confessarvi che non mi sorprende leggere messaggi di raro squallore come questo: bravo, l'Italia ha battuto la Bulgaria, un paese sottosviluppato, siamo forti, c'è da vantarsi. No, allora giochiamo sempre con il Brasile e poi vantiamoci se perdiamo, oppure buttiamoci dal terzo piano se perdiamo. Ma che discorsi sono questi? Mi sembra un discorso idiota questo. Non lei che lo scrive, ma il discorso mi sembra vagamente idiota. Come questo: il tuo idolo Balotelli ha fatto un'altra delle sue figure di cacca, proprio uno sportivo da ammirare. A parte che non è mio idolo, è un giocatore di calcio che mi piace molto. Quello che fa fuori dal campo non mi importa, nella jespica, né non la jespica, nelle macchine, nelle escort, non me ne frega niente, perché non devono essere questi i modelli di comportamento per nessuno. Io guardo un giocatore che a me piace e lo dico, non so quale sia la mia colpa. È italiano, grazie a Dio, è il centravanti della nazionale e ne sono molto felice. Quanto alle figure di cacca, se non ha ritenuto, sarà quella della... alluderà il nostro ascoltatore alla mancata partecipazione allo spottone ministeriale con eccetera eccetera. Se ha ritenuto di non aderire allo spottone ministeriale avrà avuto le sue ragioni. Ma d'altra parte non mi sorprende tutto questo in un paese in cui c'è chi lancia un pullman lancia un sasso naturalmente al pullman del Verona, fatto ben noto a Roma 10 giorni fa, e poche ore dopo va ovviamente a postare su Facebook un messaggio con la foto di una pietra e sotto la scritta "ho fatto centro", identificato come è giusto che sia, e il tifoso giallorosso già nota le forze dell'ordine. Ma di cosa ci sorprendiamo? Di cosa stiamo parlando? 800 24 00 24, Franco Milano, buongiorno. Buongiorno a lei. Io volevo chiedermi una mia idea personale. Sì. Ma un grande portiere come Buffon, non gli rimane la macchia del gol del Milan contro Montari? Macchia in che senso? In che senso? Ogni tanto vediamo il gol di Maradona fatto con la mano. Sì. È uguale, la sua stessa cosa sarebbe quel gol lì. Ma è passato qualche giorno da quel sì, fatto. No, ma lei in una carriera bellissima non gli rimane questa macchia? No, secondo me no. non vedo di quale macchia si tratti. Cioè, io devo ancora vedere un portiere che va dall'arbitro e gli dice: allora Neuer, portiere della Germania, non rimane la macchia del gol di Lampard che era dentro di 6 metri? Cioè, è sempre lì. Se vogliamo ritornare su quel caso, questo sì prescritto, allora torno a ripetere che non è compito del portiere quello di fermare il gioco e di chiamare l'arbitro e di dire guarda che questo è gol, e così via. Di quel giorno io ricordo soltanto delle dichiarazioni magari non necessarie di Buffon nel dopo partita, ma sul comportamento in campo io non vedo nessuna macchia, in tutta onestà. Franco, non so se poi Galliani abbia tolto quel fotogramma dal suo cellulare, ma penso che l'abbia tolto perfino Galliani, guardi, sono quasi sicuro di questo. Glielo chiederemo. 800 24 00 24 il numero verde. Ricorda il numero, che oggi sono tutti a giocare a nascondino, mi scrivono dalla regia, a giocare a nascondino, ma fanno bene, si stanno allenando. Da dove viene la forza per arrivare alla fine della corsa? A proposito di Olimpiadi e di sport serio, puro e pulito, oggi tra l'altro verrà eletto il nuovo presidente del CIO.

del ministro stesso? Cioè se uno poi Prandelli ma guardi Franco, allora due cose per sgonfiare il caso, anche Prandelli ha detto eravamo d'accordo di mandare altri giocatori, non so se sia vero o no, però è stata fatta troppa letteratura su una sciocchezza di questo tipo, però ecco, però spesso e volentieri c'è questo anche allo stadio. Se si fa bu a un bianco è razzismo o non è razzismo? Il problema è che non si fa bu a un bianco, lo si fa a quelli neri, e non nascondiamoci dietro i paraventi di carta velina, perché sappiamo benissimo quale senso hanno quei bu, no? Le offese a un bianco sono ancora peggiori. Quindi voglio dire, quando c'è un aspetto sportivo che può essere appunto una partita di calcio o qualunque altra cosa, però non sai... ovviamente noi ci mettiamo tutti una maglietta lei sa che non mi piace tanto pesare il fango, questo pesa di più, quell'altro puzza di meno, sono offese, sono spazzatura sonora che è spazzatura sonora che circola nei nostri stadi, però anche qui è chiaro che non sono sarebbero ipoteticamente inaccettabili le offese personali, gli insulti eccetera eccetera, però lo stadio non è il teatro, non è teatro parrocchiale, non è una chiesa eccetera, sappiamo che dentro uno stadio è inutile far finta di niente, lei parlava di demagogia, è inutile fare molta demagogia e dire che non si dovrebbe fare così, perché è vero, ma si fa e questo è quanto, però su quei bu razzisti io non abbasso le difese, nel senso che sappiamo perfettamente che cosa ci sia dietro quei cori idioti, quei cori così insopportabili, e su quello invece la guardia è meglio non abbassarla, perché il razzismo è una cosa un po' diversa dall'insulto da strada. Detto questo, si è fatta molta letteratura sulla storia di Balotelli e della ministra, vorrei anche smetterla, però lei non ha ragione quando dice fosse stato un giocatore bianco a disertare quell'incontro e sarebbe detto questo e quest'altro. Allora, Balotelli che vuol fare la bandiera della lotta al razzismo negli stadi forse ha fatto un autogol nel non presentarsi, aggiungendo un'altra bella pennellata di demagogia a quello spottone che è stato girato grazie con concessione, comodato gratuito della nostra nazionale. Ebbene, lì probabilmente ha fatto un autogol, punto e basta. 800240024, c'è chi suggerisce per le Olimpiadi il gioco della bottiglia e chi la lippa. A dopo. Tutti convocati. Allora, gioco della bottiglia, lippa l'ho già detto, 1-2-3 stella. Palla spagnola secondo Alessandra, ruba bandiera secondo Michele, ma la migliore è questa di Giacomo, nuova disciplina olimpica, il salto della commissione. Scusate ragazzi, ma io non ero milanista? Non mi avete sempre detto che sono milanista? Allora, caro Sandro Onofri, perché mi scrivi Lampard dentro di 6 metri, secondo lei Muntare di 7? Capisco che il Milan è di Berlusconi, quindi bisogna negare l'evidenza, ma chi ascolta una testa è con questa, boh, 3 puntini. Lei è un servo sciocco, ma non ero milanista, Sandro? Stefano Melocaro, da Sky. Eccomi, parla piano, se no li disturbi, che quelli sono ancora lì, Ma quando finisce? No, e questi proprio sono costruiti per perdurare così. 54 colpi, è durato un'eternità questo scambio, non so se il più lungo della storia del tennis, nella finale tra Nadal e Djokovic, che il mallorchino si è portato a casa in 4 set. No, allora scusa Carlo, io intanto ti dico, insomma, lungi da me l'idea di volerti correggere su qualcosa, ma non puoi chiamare Nadal mallorchino, perché Nadal è mallorcone. Cioè, quando si tratta di parlare di Rafa Nadal, il diminutivo non lo devi usare. È vero, neanche... non si può usare neanche in questo caso. No, è sbagliato a priori, perché non veramente siamo in presenza della più incredibile macchina esecutiva mai creata dall'uomo su un campo da tennis. Cioè, Roger Federer è il miglior giocatore della storia, ma Rafa Nadal è la migliore

No, a proposito di questi sport che vanno in proposizione per i giochi olimpici, così. No, io seriamente mi piacerebbe che il biliardo fosse considerato, anche perché mi sa che il CONI dedica da un po' di tempo abbastanza spazio e considerazione, e quindi tornei dal provinciale al nazionale, al mondiale, eccetera. Quindi niente, questo. Sì, il biliardo, ma io dico soltanto che ogni disciplina ha una, insomma, ha una sua, certamente una sua piena dignità. Poi non, quello che dico sempre è che non c'è bisogno di andare alle Olimpiadi per praticare una certa disciplina e per acquisire piena dignità di disciplina, per cercare di ampliare i numeri, eccetera. Io sinceramente sono più abbastanza che nascondino, ma sì, no, ma queste sono una sciocchezza, ma è vera, cioè il dramma è che questa non è che ce la siamo inventata, questa notizia è vera, andatevela a leggere su internet, ovunque, i siti più importanti la riportano. Daniele da Pordenone, ma siamo in chiusura, abbiamo 30 secondi. Dica, Daniele. Buongiorno dottor Zenta, sei velocissimo. Dica. Ha dimenticato 3-7 però, dai. Lo so, 3-7 l'ho scordato. E allora? 3-7 devono andare di pari passo. No, io volevo proporre un'idea, me l'ha data mio figlio di 9 anni, tiro la fune. Sì. E io invece propongo il salto con i sacchi. Salto con i sacchi preso, tiro la fune forse c'è. Chiedo conferma alla regia, ve la do domani. Non c'è il salto. Ah. Tiro con la fune. Ah no, è giochi senza frontiere. Ah. A giochi celtici, ma c'era anche in giochi senza frontiere, me ne ricordo, il Fil Rouge. Gennaro Olivieri e Guido Pancatti, magari li chiamiamo per la puntata di domani. Grazie Daniele, grazie a tutti voi. Franco Piantanini, autore di questo programma, Pietro Lacorte in regia, ciao.